giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale questa mattina a Bruniera, perdere la vita un uomo di 82 anni di Porto Buffole in provincia di Treviso, investito da un mezzo pesante. Dal ritrovamento di una pistola un anno fa alla vigilia della visita del Papa a Trieste, all'arresto nei giorni scorsi di un cittadino turco. Ingenti danni ma nessun ferito in un capannone industriale a Pordenone di una ditta del settore ascensoristico in seguito ad un incendio scoppiato nella notte. Il capannone conteneva ricambi e batterie al litio. Il maltempo in regione, in particolare a Pordenone e a Trieste, questa mattina abbondanti piogge, specie nella zona est, Muge e Caresana. Cresce il manifatturiero a Udine dopo una fine del 2024 in negativo e una ripresa nei primi tre mesi del 2025, e migliora ancora la produzione del settore manifatturiero della provincia di Udine nel secondo trimestre. Si è aperta Campo Rosso Racconta, la rassegna da oggi fino a domenica a Palazzo Viceni e nell'ex parrocchia, che vuole rappresentare un'opportunità per unire la bellezza della cultura alla forza rigenerante della natura. Di nuovo buongiorno da Maria Spezia e Sebastiano Franco, sono le 12.31 e 30 secondi, seconda edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, che si apre con la notizia di un incidente mortale questa mattina avvenuto a Bruniera presso una rotatoria di via Calderana. A perdere la vita un uomo di 82 anni di Porto Buffole in provincia di Treviso, che è stato investito da un mezzo pesante con targa lituana guidato da un camionista di nazionalità uzbeka. L'anziano è deceduto dopo il ricovero nell'ospedale di Pordenone. Ancora non chiara la dinamica di quanto avvenuto, su cui indagano i carabinieri. Ed è stato arrestato un cittadino turco di 46 anni che lo scorso anno era a Trieste il giorno prima della visita del pontefice. L'inchiesta della procura giuliana dopo il ritrovamento di una pistola in un trolley. C'è una persona in carcere legata al ritrovamento di una pistola dentro una valigia nel bar della stazione di Trieste alla vigilia della visita di Papa Francesco del 7 luglio dello scorso anno. La notizia dell'arresto è stata data dal quotidiano Il Piccolo. Si tratta di un cittadino turco di 46 anni detenuto in custodia cautelare al Coroneo. La valigia abbandonata era stata segnalata alla polizia ferroviaria da un dipendente del locale. L'uomo fu ripreso vicino al bagaglio dalle telecamere di sicurezza del bar. Le immagini furono messe in onda in esclusiva dal TG1 nei giorni successivi. Il momento del rinvenimento, il giorno prima della visita del pontefice, appunto, fece scattare la massima allerta dell'antiterrorismo con il coinvolgimento dei servizi segreti. Furono inviati in fretta e furia reparti speciali a fini di prevenzione e sicurezza. Nelle ipotesi iniziali non si poteva ignorare un possibile piano per compiere un attentato nei confronti di Papa Francesco, e anche in questo senso sono state subito indirizzate le indagini. L'uomo è stato arrestato in Olanda dopo una segnalazione tramite Interpol. La sua avvocata, Lucrezia Kermaz, ha preso in mano il caso lunedì ed è in attesa di ricevere ulteriori documenti relativi alla vicenda. Al momento non le risultano accuse di terrorismo, ma solo di detenzione e porto abusivo di armi. Kermaz ha parlato brevemente con il turco due volte, ma attende l'assistenza di un interprete per una conversazione più approfondita. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Trovato a dormire a bordo di un treno, è stato poi arrestato un cittadino senegalese su cui pendeva una condanna per rapina. La polizia ha dato esecuzione all'ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del trentenne senegalese dopo che lo stesso il 12 giugno era stato trovato a dormire dal capotreno su un convoglio privo del titolo di viaggio e dei documenti. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione in carcere per una condanna di 2 anni, 1 mese e una pena pecuniaria di 900 euro in quanto colpevole di rapina aggravata commessa a Mestre lo scorso anno. Ancora cronaca, un cittadino marocchino di 28 anni è fuggito dal centro di permanenza per i rimpatri di Gardisca di Sonza ed è tornato a Trento, cercando di rientrare alla residenza Fersi, una struttura che accoglie migranti richiedenti asilo. I carabinieri hanno bloccato il 28enne irregolare pluripregiudicato e con l'ausilio dell'ufficio immigrazione della polizia lo hanno accompagnato al CPR di Milano in attesa della definitiva espulsione. Vasto incendio questa notte in un magazzino di via Castelfranco Veneto a Pordenone, in zona industriale di proprietà di un'azienda attiva nel settore dell'ascensoristica. L'edificio conteneva oli e altri materiali infiammabili. Danni ingenti e locali inagibili, ma fortunatamente nessuna conseguenza per le persone in seguito all'incendio che nella notte ha interessato un capannone della Ferregotto Elevatori nella zona industriale di Pordenone, in via Castelfranco Veneto, e che ha raggiunto anche la vicina chiesa dei Pellegrini. Le fiamme sono divampate poco dopo le 2 quando l'azienda era chiusa e l'allarme è stato dato da personale delle fabbriche vicine. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con il supporto di una seconda squadra proveniente da Maniago e, accertato che all'interno della struttura non si trovavano persone, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che si sono protratte per oltre 3 ore. Alle 5:30 l'incendio è stato spento e si è poi proceduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Da accertare le cause del rogo, che si è sviluppato in un capannone contenente per lo più ricambi e alcune batterie al litio, dalle quali potrebbe essere partito l'incendio. Distrutta parte del capannone e un mezzo da lavoro. Impossibile quantificare con precisione i danni fino a quando non sarà possibile accedere alle strutture, ma sarebbero superiori al 1 milione di euro. L'area non è stata infatti sequestrata, ma dichiarata inagibile, così come l'adiacente edificio religioso della Chiesa dei Pellegrini. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della compagnia di Pordenone. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Come previsto dall'allerta gialla in corso, è stata una nottata di piogge, temporali e vento in Friuli Venezia Giulia per il passaggio di un fronte perturbato che ha causato abbondanti precipitazioni e anche la caduta di alcuni alberi nel pordenonese. Nelle ultime ore si sono registrate raffiche di vento fino a 70 km all'ora in pianura e fino a circa 100 km all'ora in montagna, come sul Monte Lussari e sullo Zoncolan. Dall'inizio dell'allerta sono pervenute alla sala operativa regionale della Protezione Civile, al numero unico per le emergenze 112, segnalazioni di allagamenti localizzati nei comuni di Moggio Udinese, Pordenone, Rovere in Piano e Udine e la caduta di alberi dai comuni di Spilimbergo e Sesto Arreghena. Chiusa a Trieste da oltre un'ora per smottamento la strada che collega Prebenico a Caresana nella zona delle Noghere, a Muggia disagio al traffico con deviazioni stradali per l'esondazione di un torrente. E diamo allora uno sguardo al tempo, il cielo è coperto su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste c'erano 21 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, Udine 25 gradi, Pordenone 24,5, Gorizia 22,5, Tolmezzo 22 gradi, Tarvisio 19, Piancavallo e Forni di Sopra 18, Sappada 16, Monte Zoncolan 13,5, Monte Lussari 12, a Lignano 26,5, a Grado 25 gradi, temperatura del mare in entrambe le località di 25 gradi. E per un commento sulla copiosa quantità di pioggia caduta stamattina nell'area di San Dorligo e per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo intervistato l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Marcellino Salvador. Questa mattina dall'alba fino a poco fa c'è stata pioggia molto forte in una fascia strettissima di temporali che partiva dall'Istria, sfiorava Capodistria, sfiorava Trieste, prendeva appunto la zona di confine di Trieste verso la Slovenia e lì per ore e ore si sono riversati grandi quantità d'acqua, tanto che in certi punti sono caduti oltre 200 mm di pioggia in poche ore, con una situazione davvero impressionante di temporale che si è ripetuto appunto per 4-5 ore. Questa situazione si sta al momento esaurendo, per fortuna, anche se appunto la quantità d'acqua ha dato diversi problemi. Per il resto, per quanto riguarda le previsioni per il fine settimana, direi che ancora oggi nel pomeriggio sera saranno possibili i temporali sparsi localmente e questo si ripeterà nella giornata di domani, su tutte le zone della regione saranno possibili temporali a carattere sparso. Le temperature domani scenderanno di qualche grado e quindi avremo un'aria un po' più fresca con temperature intorno ai 22-23 gradi di massima, mentre per avere il sole, bel tempo, si dovrà attendere domenica che sarà l'unica giornata proprio bella, completamente estiva ancora direi, ed è l'ultimo giorno d'estate dal punto di vista meteo. Dopodiché un'altra perturbazione arriverà probabilmente martedì con altri temporali, però la pausa di domenica è assolutamente certa e si estenderà anche per buona parte della giornata di lunedì. Lungo la rampa di uscita Villotta sull'autostrada A28 Conegliano-Portogruaro in direzione Portogruaro, questa mattina, poco dopo le 9, è avvenuto un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto, senza però causare feriti. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, l'ambulanza, i vigili del fuoco, la polizia stradale, in aggiunta personale di Autostrade Alto Adriatico, che ha provveduto a chiudere la rampa per i mezzi provenienti da Conegliano. Chiuso anche l'ingresso a Villotta per chi era diretto in direzione Portogruaro per consentire le operazioni di soccorso. Non si sono registrati problemi alla circolazione per chi viaggiava lungo la A28 in entrambe le direzioni. Intorno alle 11 la rampa è stata riaperta. A pochi giorni dall'inizio della scuola siamo andati a Udine per parlare del caro libri. Sentiamo. C'è ancora aria di vacanza a Udine, in una delle poche librerie rimaste a vendere libri di testo per le scuole. Forse aspettano gli ultimi giorni per invaderci, dice Remo Politeo, il titolare della libreria. Quest'anno aumenti dell'1,7-1,8% sui libri scolastici, calcola l'Associazione Italiana Editori, in linea con l'inflazione. Passato il periodo della gratuità della scuola primaria, la percezione degli utenti è che in Friuli Venezia Giulia la spesa per i libri sia minore che altrove, anche grazie al comodato, sovvenzionato dalla regione con 2 milioni di euro. Per una scuola secondaria di primo grado la spesa media nazionale è di oltre 550 euro ad alunno, calcolano sia Federconsumatori che Codacons. Una signora che incontriamo in libreria ci dice che il comodato d'uso fa tantissimo, a noi toglie il 50% della spesa e si aggira, per il Friuli Venezia Giulia e per questa scuola, intorno ai 200 euro. Più che raddoppiate dal 2017 al 2024 le domande alla regione per la dote scuola, per l'abbattimento delle spese scolastiche, da 10.000 a oltre 21.000 richieste, quasi triplicate le risorse. I rincari a doppia cifra riguardano i dizionari, calcola Federconsumatori. Più che libri a pesare, e non solo nello zaino, è soprattutto la spesa per il corredo scolastico, anch'essa in leggero aumento rispetto al 2024. Come ha sottolineato di recente l'Antitrust, in una situazione dove i primi quattro gruppi editoriali coprono quasi l'80% del mercato, è ancora pressoché inesistente il noleggio digitale come strumento di risparmio. Le scuole più digitalmente avanzate alleggeriscono il carico di spesa. Il mercato dell'usato, ostacolato per l'Antitrust anche dalle politiche degli editori, permetterebbe un risparmio di circa il 30%. Troppo frammentati e spesso informali i canali di rivendita dell'usato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Le politiche sociosanitarie in regione, in particolare quelle rivolte agli anziani, sono state al centro dell'incontro fra i sindacati dei pensionati del Friuli Venezia Giulia e l'assessore Riccardi presso la sede della Protezione Civile di Palmanova. Incontro che il segretario generale dello SPI CGIL FVG Renato Bressan giudica nel complesso positivo. La regione ha presentato una relazione sullo stato di attuazione delle politiche per gli anziani in regione. Secondo Daniela Bais della segreteria SPI CGIL FVG ci sono alcune priorità da affrontare assolutamente nel breve periodo, relativamente all'avvio e all'organizzazione delle case della comunità e al sistema dei servizi residenziali per gli anziani. Dopo una fine del 2024 negativa e una ripresa nei primi tre mesi dell'anno in corso, migliora ancora la produzione del settore manifatturiero della provincia di Udine nel secondo trimestre, anche se resta in contrazione rispetto allo scorso anno. Arrivano da settori chiave come la meccanica, il legno arredo e l'alimentare, notizie positive per l'industria nella provincia di Udine. I tre comparti mostrano un rafforzamento nel secondo trimestre dell'anno, da aprile a giugno, dovuto in parte agli acquisti anticipati delle imprese in vista dei dazi degli Stati Uniti. La meccanica cresce del 2,9%, anche se rispetto allo stesso trimestre del 2024 resta in calo dello 0,9%. Situazione simile per il legno arredo, più 3,9% rispetto al primo trimestre, ma meno 1% su base annua. In crescita anche l'alimentare e la gomma e plastica, crollano invece la carta e i materiali da costruzione, negative la chimica e la siderurgia. A tracciare il quadro è Confindustria Udine, che registra nel complesso una variazione congiunturale positiva della produzione dello 0,7%, anche se resta una contrazione tendenziale del 2,4%. Analogo l'andamento delle vendite, più 2% rispetto al trimestre precedente, ma meno 2,4% in termini tendenziali. Cresce l'utilizzo medio degli impianti, a segnalare una maggiore intensità produttiva, mentre l'occupazione mostra una leggera variazione congiunturale positiva dello 0,5%. Per i prossimi mesi il 68% delle imprese prevede stabilità nella produzione, il 22% un'espansione e il 10% una contrazione. A preoccupare è soprattutto l'inasprimento dei dazi del mercato statunitense, secondo sbocco commerciale della provincia dopo la Germania. Speranze potrebbero arrivare invece dal piano infrastrutturale tedesco e dalla politica monetaria più accomodante della BCE, oltre che dall'integrazione con i paesi emergenti. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. In vista dell'apertura della stagione venatoria, fissata per lunedì 1 settembre, è stato predisposto un piano mirato di controlli sul territorio. L'obiettivo è garantire il rispetto delle normative, assicurare lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e prevenire eventuali comportamenti illeciti. Nel giorno di apertura, gli agenti di Federcaccia saranno presenti in tutta la regione per vigilare sul corretto svolgimento della caccia. Tra le norme è quella del rispetto delle distanze previste dalla legge, 100 metri da abitazioni o luoghi di lavoro, almeno 50 metri da strade carrozzabili e linee ferroviarie, 150 metri se si spara in direzione delle stesse. Evitare danni ai campi coltivati, non lasciare sul posto bossoli e rifiuti. In caso di violazioni, i cittadini possono segnalare la situazione agli organi competenti. Federcaccia FVG mette inoltre a disposizione un contatto diretto con il coordinatore regionale al numero 331-3504-109 o via mail all'indirizzo vigilanza.fvg@fvg.it. Parliamo ora delle truffe al telefono, un fenomeno trasversale e per tutte le fasce d'età e livelli di istruzione. Non c'è infatti una categoria di persone particolarmente colpita, secondo la Polizia Postale. Non bisogna farsi indurre dalla fretta dell'interlocutore. Indurre un senso di urgenza, mettere fretta all'interlocutore così da farlo cadere nel tranello e compiere le operazioni che gli vengono richieste, fornendo i propri codici bancari o spostando il denaro su conti che gli sono indicati. È questo il meccanismo su cui fanno leva gli autori delle truffe telefoniche, che colpiscono anche molti cittadini del Friuli Venezia Giulia e che sempre più spesso, come riscontra la Polizia Postale di Trieste, arrivano da numeri che sembrano essere quelli di enti affidabili, come banche o forze dell'ordine, con i truffatori che quindi si spacciano per consulenti o agenti. Numeri che però sono clonati attraverso servizi VoIP basati all'estero e che poi instradano la chiamata nel nostro paese. Il meccanismo, poi, è il solito: mettere pressione al malcapitato facendo credere che il proprio conto corrente sia sotto attacco e che le forze dell'ordine stiano intervenendo, ma che occorra spostare il proprio denaro con bonifici istantanei, destinati quasi sempre a conti esteri, da dove il denaro viene poi convertito in una o più criptovalute, rendendo così sempre più difficile seguirne le tracce. Ogni mese, spiegano dalla Polizia Postale, le segnalazioni di questo tipo di truffe sono diverse decine e molto spesso arrivano quando il danno è già avvenuto. Il fenomeno è trasversale a tutte le fasce d'età e i livelli di istruzione. Non c'è quindi una categoria di persone particolarmente vulnerabile. La precauzione principale da prendere, spiega la polizia, è quella di evitare la fretta. Giuseppe Panarello, direttore tecnico capo della Polizia Postale di Trieste. Se c'è stata una clonazione di un numero di telefono, evidentemente di un qualche ufficio di polizia o di un istituto di credito, quasi sicuramente ci sarà questo senso di urgenza. Allora la cosa importante è mettere giù la conversazione e richiamare lo stesso numero che con ogni probabilità avrà la risposta dell'operatore corretto. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono arrivati in Friuli Venezia Giulia altri lavoratori ghanesi specializzati in logistica e trasporti, formati nelle scuole salesiane di Accra e Sugnani nell'ambito del progetto Ghana, iniziativa promossa da Confindustria Alto Adriatico. Con questo nuovo arrivo, il numero complessivo di occupati nelle imprese italiane grazie al programma si avvicina alle 300 unità. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha incontrato i nuovi arrivati a Pordenone, sottolineando il valore del percorso. Il progetto prevede un percorso integrato, formazione tecnica nel paese di origine, un modulo di perfezionamento in Italia e assunzione in somministrazione. Apriamo la pagina della cultura con il festival Camporosso Racconta, nato dall'idea di due giornaliste, Emily Menguzzato e Ilaria Romanzin. La rassegna, da oggi fino a domenica a Palazzo Vicenia e nell'ex parrocchia, vuole rappresentare un'opportunità in un'epoca dominata dalla frenesia e dalla tecnologia per unire la bellezza della cultura alla forza rigenerante della natura. Sentiamo cosa propone dalla voce di Emily Menguzzato. Siamo giunti alla terza edizione di Camporosso Racconta, che andrà avanti fino a domenica 31 agosto. È un festival letterario che porta libri, autori e parole all'interno della natura del Tarvisiano. È un festival organizzato dal Consorzio Agrario Vicinia di Camporosso. Tra gli appuntamenti da non perdere questo pomeriggio? Nel pomeriggio inizieremo alle 16.30 con Alessandro Mezzenalona, col libro Nero è il colore delle note, verrà moderato l'incontro da Fabiana Martini, e poi alle 17.30 Maurizio Mannoni con Quella notte a Saxa Rubra, assieme a Cristiano Degano presenteranno questo libro edito dalla Nave di Teseo. Nei prossimi giorni poi ci saranno diversi incontri anche per bambini. Quest'anno abbiamo scelto di organizzare appunto degli appuntamenti in contemporanea per bambini e per adulti nello stesso luogo, nel Palazzo del Consorzio della Vicinia. Quindi avremo tra gli ospiti Cristina Marsi e poi Stefania Del Rizzo, Anna Simioni. Invece domani continueremo poi gli appuntamenti per i grandi con Pietro Spirito, Paolo Colombo e Fausto Biloslavo. Altri appuntamenti di oggi: l'autore Alessandro Stani presenterà il suo libro Messaggi dal cielo a Ene Monzo al Centro Sociale in Via Nazionale alle 20. Siamo alla pagina degli spettacoli per la musica. L'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Romolo Gessi, accompagnata dalla violoncellista Marianna Sinagra, si esibirà in musiche di San Martini, Haydn, De Grassi e Mendelssohn a Tarvisio, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli alle 20. Terzo appuntamento per la rassegna delle serate musicali a Villa Codelli con il concerto da Beethoven a Chopin del pianista Ruben Schaferi, che si terrà a Mossa con inizio alle 21. Concerto conclusivo della masterclass del violinista belga Marc Buchkov a San Canzian di Sonzo, Villa Marchese de Fabris di Begliano alle 16. L'organista tedesco Clemens Luke suonerà improvvisazioni sui film muti di Buster Keaton a Trieste nella chiesa evangelico-luterana di Largo Panfili alle 20:30. Il concerto Sogni e Melodie della Belle Époque, un viaggio musicale nella Mitteleuropa, si terrà a Trieste al giardino del Museo Sartorio alle 20. Sul palco l'orchestra di fiati arcobaleno di Trieste, il coro dell'Accademia Lirica Santa Croce di Trieste e al pianoforte il maestro Fabio Zanin. L'opera lirica Turandot di Giacomo Puccini andrà in scena a Pozzuolo del Friuli nella cornice di Villa Gradenigo Sabatini alle 20. Il penultimo appuntamento della rassegna Palchi nei Parchi proporrà l'esibizione delle tre voci femminili del gruppo Le Babette, accompagnate da un quartetto jazz nel concerto Cheek to Cheek a Pagnacco, Parco Rizzani alle 20:45. Per il progetto artistico e culturale itinerante E4Europe, stasera lo spettacolo Sui sentieri per l'Europa di e con Mattia Cason, Alessandro Conte e Mohammed Abd al-Munimum a Grado, al campo del Patriarca Elia, alle 21. La serata sarà preceduta da una passeggiata guidata tra le vie del centro storico, ritrovo alle 18:30 presso la Basilica di Sant'Eufemia. L'edizione estiva del ciclo Piccoli Palchi propone uno spettacolo di clownerie per bambini dei 5 anni che si terrà ad Amaro in piazzetta Schonau alle 18. La memoria dell'acqua, l'archeologia prende vita, l'esperienza artistica immersiva in calendario a Polcenigo, in località Santissima, al sagrato della Chiesa della Santissima Trinità alle 18:15. Tema dell'evento, il sito palafitticolo e naturalistico patrimonio mondiale dell'umanità del Palù di Livenza. Doppio appuntamento a Udine per riscoprire due figure che hanno segnato la storia e la letteratura del Friuli, il poeta Pietro Zorutti e la scrittrice Caterina Percoto a Palazzo Morpurgo dalle 17. La rassegna estiva Aspettando Collinarte prosegue con l'evento dedicato a bambini e bambine a partire dai 4 anni a Caccia di Suoni, che si terrà a Dignano alla biblioteca alle 18. Sono le 12:52 minuti e 53 minuti proprio in questo momento. Il giornale si chiude qui grazie alla collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Marco Ferrito, in segreteria Paolo Nuzzo, da Maria Spezia e Sebastiano Franco. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.